I'm in trouble. Evolve tutto intorno e tu resti lì, come un quadro antico senza più colori vivi. Evolve tutto il resto, il futuro è già qui. Guardi il passato che non tornerà mai più. Evolve tutto intorno e tu resti lì, come un quadro antico senza più colori vivi. Evolve tutto il resto, il futuro è già qui. Ma tu guardi il passato che non tornerà mai più. Le stelle cadono, ma tu non fai un passo. Hai paura del nuovo, di rompere il tuo guscio. Il tempo scorre via come un fiume impetuoso. Al tuo cuore in...